Perdonatemi, vi prego, se turbo questa prima calda domenica di maggio con argomenti funerei, ma sono 14 giorni che continuo ad adoperarmi su un problemino e vorrei proprio sottoporlo anche a voi. Ricorderete tutti senz'altro di aver letto sui giornali del 21 aprile scorso come in quella data, alle 14 ora locale, sia stato felicemente lanciato dalla base spaziale delle Isole Canarie un missile Pegasus. Un missile Pegasus destinato a mettere in orbita, oltre al primo satellite artificiale Minisat-01 di fabbricazione spagnola, che a me ha fatto venire in mente una vecchia gag dei tempi di alto gradimento, ma roba di 20 anni fa e lasciamo perdere, a mettere in orbita una speciale capsula che rinchiudeva 22 minuscole cassette di zinco contenenti ciascuna una porzione simbolica, 7 grammi, di ceneri di altrettanti defunti cittadini statunitensi che hanno lasciato a disposizione perché il loro funerale si celebrasse appunto in tal modo. Il tutto è stato realizzato al modico prezzo di 7 milioni di lire, spero di pesetas, non di dollari, a cura dell'agenzia di pompe funebre Celestis di Houston, Texas, organizzazione ispirata dall'ex astronauta Donna Slayton, che infatti è stato tra i primi ad avvalersi del nuovo servizio. Accanto a 7 grammi delle sue ceneri sono state mandate in orbita pari dosi dei resti mortali di Timothy Lear, il professore di Harvard che abbracciò negli anni 60 la contestazione giovanile divenendo il profeta dell'SD, come hanno detto i giornali, di Gene Roddenberry, scrittore di fantascienza e inventore della serie di Star Trek, e di altri 19 americani meno noti, ma altrettanto determinati in vita a far arrivare le loro ceneri nello spazio. I giornali hanno trattato l'episodio come puramente folcloristico, secondo il modello della solita americanata, e forse anche voi sarete tentati di trovarlo di scarso spessore teorico, e può darsi benissimo che sia così. Ma in certi casi è proprio l'apparente incontaminata futilità di un evento a renderlo interessante, perché è difficile non chiedersi, se ci si pensa, perché mai degli individui razionali dotati dell'intelligenza necessaria per guidare complicati veicoli spaziali, per concepire situazioni e personaggi di una serie televisiva di successo, per far parlare il mondo di sé per 30 anni abbondanti, perché mai abbiano avuto un'idea così assurda come quella di farsi seppellire nella misura di 7 grammi di ceneri nello spazio? E non solo perché evidentemente grandi vantaggi dell'operazione a loro non potevano venirgliene, quali che fossero le loro opinioni in tema escatologico. Il problema è quello degli svantaggi che l'operazione non poteva non procurare agli altri. E considerate i fastidi, le complicazioni e le spese cui sono stati costretti i familiari e gli eredi, la dilapidazione di risorse e di tecnologia che la faccenda comporta, il fastidio inevitabilmente procurato al personale della base missilistica, e vedrete anche voi che la questione merita di essere posta. Perché ciascuno è libero di disporre del suo corpo come meglio crede, ci mancherebbe altro, ma appunto per questo ha il dovere di attenersi a una certa discrezione. Tanto più che la nostra cultura prevede in sostanza due ipotesi base su che cosa succederà di noi dopo la morte, ma nessuna di esse dà peso ai modi e alle forme della sepoltura. Dai tempi degli antichi egizi, che prevedevano ogni sorta di complicazioni per le anime se il corpo relativo non veniva opportunamente imbalsamato, da quelli degli anticlericali di fine 800 che si davano molta pena per essere cremati al preciso scopo di infastidire il clero locale, è passata molta acqua sotto i ponti. E non credo che il problema possa ridursi alla ben nota ambizione di far parlare di sé, la tendenza a cercare qualche consolazione della propria mortalità nella speranza di essere ricordati dai posteri è un'antica tradizione nel pensiero occidentale, risale ad Omero, no? Ma non è evidentemente questo il caso. Donald Slayton, Timothy Leary e Gene Roddenberry godevano ciascuno nel proprio campo di tutta la fama che si potesse desiderare e poi sono stati accompagnati nel volo finale dalle ceneri di 19 perfetti sconosciuti, ovviamente destinati a rimanere tali, che pure hanno ritenuto valesse la pena di affidarsi alle cure dell'impresa Celestis. Oltretutto di un funerale del genere magari si parla al giorno in cui viene celebrato, ma poi è fatale dimenticarsene. E come se non bastasse, l'aspettativa di permanenza in orbita delle ceneri è brevissima, sono solo 3 anni, da 3 a 10 anni se va tutto bene, molto di meno di quanto possa durare un buon monumento funebre in stile antico, che almeno ha il vantaggio di ricordare ai frequentatori del cimitero la potenza e le disponibilità economiche della famiglia. No. Nella logica che ha presieduto la decisione di farsi spedire in orbita causando ai propri posteri immediati gravi fastidi ed depauperando di una cifra non da poco l'asse ereditario, deve esserci proprio qualcosa che mi sfugge. A meno, naturalmente, che l'ipotesi di creare dei fastidi agli eredi non sia una conseguenza forse sgradevole ma inevitabile della decisione in questione, ma il motore stesso che in ultima analisi l'ha determinata. In fondo, capita spesso che le ultime volontà dei defunti creino qualche fastidio ai sopravvissuti, e se fosse questa sotto sotto la loro funzione? Io non so niente del carattere di Gene Roddenberry e degli altri, ma Timothy Lear, un discreto rompicoglioni, lo era, e a pensarci bene. E anche prescindendo dal caso specifico, non è difficile ricondurre la tendenza a rompere le scatole ai sopravvissuti a una logica generale. Tutti desideriamo essere ricordati, ma qual è il modo migliore per essere ricordati? Elargendo ai discendenti benefici e favori che essi considereranno comunque dovuti, o imponendogli privazioni inattese e faticose corvée, alle quali non sapranno comunque sottrarsi, perché nessuno potrebbe essere tanto insensibile da rifiutare di adempiere alle ultime volontà di un caro estinto. Chiunque, come ultima volontà, abbia quella di esercitare qualche potere su qualcun altro, e probabilmente questa è la volontà dominante, chiunque abbia questa volontà sa anche che il potere è veramente tale se si esercita a spese di qualcun altro. Sì, c'è il rischio di farsi mandare a quel paese, ma tanto che importa, a quel paese che lascia a disposizione di quel genere c'è già. Non siamo soli nell'immensità del cielo, milioni di anni.